Fabrizio Intonti. Cose in cui cominciare è molto facile, le complicazioni arrivano un po' dopo. Una di queste cose è fare le fotografie. È facile iniziare a fare delle foto, soprattutto adesso che ci sono queste macchinette fighissime che fanno tutto da solo, almeno sembrano. Tu ti metti lì, scatti e dici, ammazza che bella foto che mi è venuta. E allora le cominci a fare, le fai agli amici, ai tramonti, ai gatti, ai fiori, a una bella ragazza che passa. Poi cominci a fare le foto ai dettagli, ai particolari, al fiore e alla ragazza che passa insieme. Una foto col fiore sfocato e la ragazza nitida, una con la ragazza sfocata e il fiore nitida, uno con il fiore, la ragazza nitida e un piccione che passa dietro sfocato. Insomma, fai tutta una serie di foto particolari belle, cominciano a farti complimenti, ti compri macchine, flash, attrezzature, borse, treppiedi e cominci a pensare, perché non faccio questo di lavoro? E anche se un lavoro ce l'hai, ti frega lo stesso questa cosa, perché mentre fai il tuo lavoro e mentre aspetti che arrivi il sabato o la domenica per andare in giro a fotografare, pensi, e se lo facessi? E se andassi in giro per il mondo facendo foto, vendendole e vivendo di questo? L'argomento di oggi è questo qua, 800 24 00 24. Ah, Nancy, ciao, sono Richard. Senti, nel Salvador tra un po' scoppia un grosso casino. Se mi procurate un'altra tessera stampa e un paio di migliaia di dollari, vi mando del materiale incredibile, che ne dici? Niente da fare. Ok, ma almeno la nuova tessera stampa, Scordatela. I soldi che ti abbiamo mandato per quel servizio dal Libano te li sei mangiati con le puttane. Sì, è vero, non mi piacciono i locali notturni musulmani. Questa è un'agenzia giornalistica. Secondo me è meglio che cambi mestiere. Aspetta. Di te non ne vogliamo più sapere niente. Senti, io il materiale ve lo mando, sì o no? Ti ricordi il servizio su quelli dell'Ira torturati dagli inglesi a Belfast e quell'altro dalla Cambogia? Sono stato l'ultimo a partire. Sidney Shambles si prendeva il cocktail al bar del Plaza, mentre io prendevo i calci nel culo della strada. E quella volta che per voi mi sono congelato le palle in Afghanistan, e quella dissenteria medica, sono stato inchiodato sul cesso per 2 settimane di fila, ok? E questo era un film di Oliver Stone dal titolo Salvador, incentrato su questo reporter di guerra che insomma cercava di vendere le sue foto e Roma raccontava questa vita avventurosa. 9 minuti dopo le 4 del pomeriggio, benvenuti, questa è la trasmissione che si chiama Giro di Vita e che ogni giorno, ogni pomeriggio viene qui per parlare di persone che hanno cambiato tutto e si sono inventati un nuovo inizio, di gente insomma che cambia vita o che ci sta provando. Io sono Achille Corea, oggi parliamo di un modo di cambiare vita legato a una passione molto diffusa che magari anche molti di voi hanno, cambiare vita per vivere di fotografia e in particolare di fotografie di viaggi, di reportage. E come funziona lo sapete, noi ne vogliamo parlare con voi, vogliamo parlare con gente che questa scelta l'ha fatta o sta provando a farla proprio in questo momento. E infatti sentiamo Lorenzo Moscia, pronto? Sì, eccomi, buongiorno, buon pomeriggio per voi. Sì, Lorenzo, appunto, buongiorno a te che non hai il nostro stesso fuso orario. Dove sei? Santiago del Cile. E da quanto tempo ci stai? Da 10 anni che compio 10 anni del mio titolo, la mia laurea in legge nel 99 alla Sapienza di Roma, un anno di praticantato e poi ho appeso la cravatta al chiodo e ho cambiato la cravatta per la macchina fotografica da 10 anni. Perfetto, noi infatti ti abbiamo chiamato proprio per questo, perché il tuo cambio di vita è legato alla macchina fotografica. Ci racconti perché l'hai fatto? Io ho sempre avuto la passione per le immagini sin da piccolo, facevo dei piccoli documentari a casa usando familiari come personaggi e poi un viaggio, una vacanza sull'isola di Pasqua mi ha cambiato la vita. Mentre stavo riprendendo con una macchina, con una cinepresa, un'onda, mi sono stato investito da un'onda, la macchina da ripresa l'ho dovuta buttare, è cambiata per una macchina fotografica. Di ritorno in Italia ho scoperto che dentro a quei 20 rullini che ero riuscito a scattare ne erano venuti fuori 2 con un materiale abbastanza buono su una famiglia dell'isola di Pasqua che riuscì a vendere al Diario di Milano, l'anno 97, che mi pagò. E quindi il fatto di ricevere dei soldi, di essere pagato per una cosa che mi sembrava quasi un gioco, mi ha iniziato a stimolare, mi è entrata un po' la voglia di continuare. E anche se mi mancavano esami all'università, e quindi ho continuato, mi sono laureato con le ultime forze, ho fatto un praticantato di un anno in uno studio di divorzi e finalmente ho deciso di ritornare in Cile perché una casa editrice mi aveva offerto la possibilità di realizzare un libro di fotografie sull'isola di Pasqua. Quindi sono iniziato una serie di viaggi sull'isola di Pasqua e poi la pubblicazione di un libro nel 2002. Dopo la pubblicazione del libro ho deciso di entrare in un'agenzia fotografica che stava in Argentina e ho scoperto che si poteva in qualche modo vivere della passione della fotografia, anche se la mia illusione iniziale, che era quella di poter relazionarla con i viaggi, era un'illusione. E infatti a chi pensa che possa che l'amore per i viaggi lo possa, diciamo, collegare con la fotografia, dico che forse è meglio lasciar perdere la fotografia. Per come la vivo io, quella del reportage, il fatto del viaggio è secondario, c'è tutto un tema di scoprire più che altro la natura umana dietro al viaggio, dietro alla fotografia. E quindi ho iniziato a coprire vari eventi in Latin America, come la crisi in Haiti, la vita dentro una favela di Rio de Janeiro, Cuba, la vita del carabiniere qua a Santiago del Cile. E ho scoperto che la mia passione era più che per i viaggi, era quella di entrare dentro una, si può definire una tribù, può essere urbana, può essere come gli indigeni dell'isola di Pasqua, la favela, e entrare dentro una situazione e cercare di iniziare a fotografare solamente quando si sente di far parte di quella situazione. Lorenzo, sentimi, io devo chiederti, perché visto che tu hai parlato sin dall'inizio di comunque essere pagato, di essere riuscito a vendere dei lavori, qualche spiegazione in più su questo, perché io credo che una cosa che spaventa molto chi vorrebbe vivere di fotografia è queste foto poi a chi le vendo e come le vendo. Ti dico, io in questi ultimi 10 anni ho visto che il mercato delle agenzie fotografiche, lo sbocco naturale è quello delle riviste, quindi cercare di piazzarle in riviste. Il mercato, dal mio punto di vista, si è chiuso ogni volta, non mi vengono le parole in italiano, è andato sempre peggio, io direi, negli ultimi anni, perché grandi agenzie italiane, un esempio su tutti, la Grazia Neri, nella quale sono stato per 5 anni, ha chiuso dopo 43 anni, e il mercato è tremendo, c'è una grande offerta, non è quel mercato diciamo della Magnum, un mercato degli anni 70, agli anni 80, nel quale la professione del fotoreporter era relazionata con le agenzie fotografiche. Ora c'è stata una grande un grande assorbimento da parte di grandi agenzie tipo la Corbis, che hanno comprato piccole agenzie e quindi vendono le foto a valori minimi e vanno sulla quantità, non sulla qualità. E il tipo di giornalismo che faceva Tiziano Terzani per il Der Spiegel in collaborazione con fotografi tipo Abbas negli anni 70, il Vietnam o la crisi in Indocina negli anni 80 nell'est, vedo che si sta abbastanza spegnendo. Lorenzo, senti, la domanda che però qui mi viene anche, se proprio perché mi immergo anche, mi medesimo negli ascoltatori, è se essere andato in un posto così lontano comunque ti ha aiutato. Secondo te, tu, rimanendo in Italia, questa cosa l'avresti fatta? Era necessario andare in Cile? Ma il fatto del Cile, io credo che sì, l'avrei fatta anche in Italia, infatti sto pensando di ritornare in Italia e di andare a una scuola di fotografia che è la Graffiti Press, chissà come professore di workshop, perché dopo 10 anni qui in Sud America credo che la mia tappa dopo 10 anni e 3 figli, credo che la mia tappa si stia un po' completando, non sono pentito, però credo che il fatto di stare qui sì mi ha aiutato, perché in Cile, quando sei straniero, soprattutto italiano, ti si aprono più porte, e Latin America per me è stata sempre un gran tesoro e continua a essere un gran tesoro. Il fatto di potersi relazionare con le persone qui, di creare quel tipo di reportage intimo a cui facevo riferimento all'inizio dell'intervista, è molto più facile qui che in Europa. Per esempio, anche se l'Europa ha il pregio che sta molto più vicino all'Africa o alla Russia, e quindi sono degli argomenti che in questo momento sono molto più seguiti, soprattutto dai nostri giornali, mentre qui in Latin America non è molto seguita. Insomma, si conta anche un po', diciamo, se avere delle nazioni da fotografare che siano di moda, tra virgolette, mi sembra di aver capito, insomma, che si interessi nei giornali. Sì, la moda la fanno i giornali, infatti ti dico, io l'ultima volta che ho venduto foto in Europa è stato con il tema del terremoto che c'è stato, il quinto terremoto più grande del mondo, quindi però vedo che in Europa tira molto di più sempre argomenti dell'Africa o dell'est europeo. Va bene, cercheremo di capire anche se questo è vero. Intanto io però ti chiedo due consigli, vista la tua esperienza, per i nostri ascoltatori. La valigia e la zavorra. Allora, Lorenzo, dici un po', visto che tu, insomma, sei partito per molto lontano, cosa hai messo in valigia e cosa hai buttato? Messo in valigia la macchina fotografica, ovviamente. Sempre. La macchina fotografica la macchina fotografica, direi. Basta quello. E cosa hai buttato quello. O hai capito dopo che si poteva buttare? Scusa, non ti ho capito, ripetimi. Che cosa hai buttato? Qual era la zavorra dalla quale liberarsi? La laurea in legge, che non sono mai andato a riprendere la Sapienza. Ah, sta ancora lì. Non so, chissà se la trattengono dopo tutto questo tempo. È un dubbio che dovresti toglierti prima o poi, secondo me. No, ritornando in Italia. Comunque, una cosa che mi manca, non so se veniva nella lista di domande, sono le uscite notturne con gli amici nella Roma by night. Quello in Cile non sei riuscito a riprodurlo? No, Cile, Santiago è una città che non offre molto, soprattutto dal punto di vista culinario. Mozzarelle, formaggi, pizza, non sono una delle cose che veramente quando le vedo per televisione quasi piango. E non c'è niente da fare, quello a noi italiani manca sempre ovunque. Grazie Lorenzo, diamo il tuo sito che è www.moscia.cl. Controindicazioni. Questa scelta di vita è sconsigliata se... Ai matrimoni, per essere originali, fotografate gli sposi mentre incrociano i bicchieri. Dopo una cena, voi cominciate a mostrare le vostre foto e gli altri iniziano a sparecchiare. Aggiungete dei cuoricini alle foto con il computer per renderle più tenere. Pensate che il vostro gatto meriti almeno 5 scatti a settimana. La foto più rischiosa che abbiate mai fatto è quella al topless di una vicina di ombrellone. Le persone che fotografate a un certo punto vi dicono: ci vuole molto? Quando andate in viaggio, lasciate la macchina fotografica in albergo per paura che ve la rubino. Se vi dicono che le vostre foto sembrano delle cartoline, pensate che sia un complimento. E questi sono un po' di sconsigli, perché insomma i consigli ve li danno i nostri ospiti e le persone che ci chiamano, o se ne avete voi, 800 24 00 24, se avete provato a fare i fotografi per cambiare vita o ci state pensando, noi siamo qui e aspettiamo le vostre telefonate, anche perché adesso ne parliamo con una persona che se ne intende parecchio. E se lo facessi io? Infatti, per diciamo sentire qual è lo stato dell'arte sulla fotografia e sulla possibilità di viverci, noi siamo al telefono con Roberto Koch, che è fondatore e amministratore dell'agenzia Contrasto e della casa editrice Contrasto 2. Benvenuto. Benvenuto, grazie a voi. Allora, noi abbiamo sentito questa testimonianza di una persona che ha fatto quello che molti dei nostri ascoltatori suppongo vorrebbero fare, cioè partire e cercare di vivere di fotografia. Qual è la difficoltà al momento nel cercare di fare questa cosa? Ma intanto bisogna dire che fare il fotografo, soprattutto il fotografo di reportage, almeno a mio avviso, è stata la motivazione principale per cui poi mi sono dedicato a questa attività e alla costruzione dell'agenzia. È forse uno dei mestieri più belli del mondo per chi lo pratica, per chi riesce a farlo in modo professionale. Conoscere il mondo in prima persona, senza intermediazioni, è un'esperienza straordinaria e che riempie di emozioni e di conoscenza la vita. Quindi diciamo, fotografare per conoscere e poter conoscere attraverso la fotografia è veramente qualcosa di eccezionale. È un mestiere però anche molto competitivo, uno potrebbe voler fare l'attore, bellissimo mestiere. ci si confronta anche lì sul fatto che molti altri lo vogliono fare, molti altri sono affascinati, magari bisogna dimostrare di avere delle capacità al di là dello standard per emergere, per affermare un proprio punto di vista. Ma secondo lei, in questo momento, dalla sua esperienza, è più una questione, lei ha detto di capacità, è più una questione di tecnica o è più una questione di trovare, non so, un segmento che gli altri non coprono? No, la tecnica non è mai stata importante. Cartier-Bresson e tutta una sfilza di fotografi di quella generazione dicevano che all'inizio si fotografa senza sapere cos'è la tecnica, poi c'è un periodo in cui la tecnica si approfondisce e poi la si dimentica per sempre, perché diciamo è un elemento che poi non aiuta a capire. Certamente un po' di perizia ci vuole, ma quello che ci vuole è lo sguardo, sapere dove mettere la macchina, sapere come fotografare. Credo che sia, sentendo Lorenzo, mi rendevo conto appunto come anche nella testa dei singoli fotografi la delusione di questo momento sia molto forte. È un momento difficilissimo, lo ricordavo la chiusura di Grazia Neri. Noi stiamo andando avanti sempre di più, inserendo nuovi dipartimenti, nuove sezioni della nostra attività, ci guardiamo intorno, cerchiamo di essere attivi in molte direzioni, ma è vero che il riferimento principale, che è sempre stato quello del mondo dei giornali, in questo momento è venuto a mancare, soprattutto è venuto a mancare la capacità produttiva da parte dei giornali, la capacità di poter immaginare un lavoro originale, esclusivo, per il quale si chiede ai singoli fotografi una partecipazione. Ma secondo lei qual è il motivo di fondo? Ma è che si sono accoppiati due problemi negli ultimi due anni. Il primo problema è la crisi dei giornali, rispetto all'evoluzione dei linguaggi, alle potenzialità offerte da internet, dall'informazione online, dalle nuove piattaforme come iPad, i tablet, eccetera, che obbligano a pensare in maniera diversa, e all'interno delle redazioni dei giornali è un processo che andrebbe svolto in pochissimo tempo, ma che purtroppo non può essere svolto in così poco tempo, perché si tratta di cambiare la testa delle persone. Non è semplice, è molto più facile immaginare una redazione ex novo, che ovviamente non è possibile, quindi questi tempi all'interno di una evoluzione difficile anche da prevedere, perché nessuno sa dove andare, sappiamo più o meno in che direzione stiamo andando, ma non sappiamo il modo finale che ci troveremo a dover, con cui ci troveremo a doverci confrontare. E senta, la parte economica, che sì, comunque una crisi generale drammatica, che quindi ha acuito ancora di più questo problema e colpisce questo settore. Senta, in questo sviluppo, in questo momento di passaggio, internet lei lo vede come una difficoltà per i fotografi, perché si possono pescare immagini online, o come una ricchezza, perché magari fate dello scouting e trovate nuovi talenti? Internet, come tutte le rivoluzioni tecnologiche, è un'opportunità straordinaria, quindi bisogna pensare in avanti e con ottimismo e con positività. Quindi si tratta senz'altro di un'opportunità. L'opportunità è accoppiata al fatto che la grande diffusione delle immagini digitali attraverso internet mescola ancora di più i professionisti con i non professionisti. C'è un'idea di informazione che possa arrivare da chiunque, da qualunque parte del mondo, senza chiedere necessariamente una professionalità acquisita attraverso esperienza e appunto determinati progetti di reportage di viaggio, con una verifica con i media che possono aver dato quel di più che poi si chiede a un giornalista, a un fotogiornalista. Le chiedo in sintesi un'ultima cosa: qual è l'errore più grossolano o più diffuso che si fa nel proporsi a un'agenzia come voi? Ma per esempio uno degli errori che ogni tanto i fotografi fanno è di arrivare dicendo mi dispiace che le stampe non sono perfette perché non ho avuto tempo, come se il tempo l'avessimo stabilito noi, l'ha stabilito chi viene, quindi voglio dire, scelga il tempo con più attenzione. L'altra cosa è appunto, ma è una delle particolarità della fotografia, tutti fotografiamo, no? E pochissimi tra di noi sono fotografi professionisti. Se uno vuole proporsi come professionista, deve capire che c'è uno stacco molto forte tra quello che è la pratica quotidiana della fotografia, che pure è meravigliosa, con una dimensione più professionale. Però c'è molta confusione e purtroppo non è imputabile ai singoli fotografi, ai singoli individui. Ci sono anche molti talenti che uno ha un grandissimo piacere nello scoprire, nel poter dialogare con loro, quindi sono dei momenti anche di grande gioia quando si scopre la possibilità di fare un percorso insieme a un fotografo di grande capacità. Quindi diciamo la situazione non è così pessima come si potrebbe immaginare. Io ringrazio Roberto Koch per essere stato con noi, fondatore e amministratore dell'agenzia Contrasto. Ah sì, è bello fare le foto, è bello anche venderlo, se uno ci riesce, è bello, bello venderle, guadagnarci, viverci. 800 24 00 24, Alessandro, pronto? Pronto. Le hai vendute delle foto? Ma sì, ciao Achille, io ho venduto delle foto al CTS. Scusa, chi? Al CTS, al CTS, centro, sì. Sì, al CTS per i loro cataloghi fra il 2000 e il 2001, e riuscii a pagarmi un paio di viaggi, non fu niente di eccezionale, però... Ma quanto, per curiosità, per sapere, magari la gente non lo sa proprio, a quanto si può vendere una foto? Guarda, era il tempo che c'erano ancora le diapositive e pagavano, non c'era ancora l'euro, stava entrando, pagavano circa 25.000 lire a foto senza esclusiva, quindi non era male, insomma. E quante ne hai vendute? Ma per 1.500 euro, no scusa, 1.500.000 di lire. E scusa, in euro non ne hai mai vendute foto, hai finito lì? No. Poi ho smesso perché ho fatto un dottorato di ricerca e adesso nel frattempo ho cambiato macchina fotografica un sacco di volte, adesso sono arrivato alla EOS 550D e ho sempre avuto Canon, io fin dal 1989. Però non le vendi più queste foto? No, io vorrei ricominciare, solo che ho perso il contatto al CTS e devo ritrovare. Allora facciamo un appello, voi che avevate comprato le foto di Alessandro in lire, provateci anche adesso in euro. Dobbiamo chiudere, purtroppo. Poi vorrei, insomma, col digitale c'è stata veramente una rivoluzione, vorrei capire se sono ancora interessati. Però io credo ci sia un mercato, anche se è inflazionato. Ma la cosa interessante è che io sono figlio di un fotografo. E non hai ereditato? Come? Non hai ereditato? No, ho ereditato un archivio di 3000 6x6 in bianco e nero fantastiche che vanno dal 1949 al 74 e volevo parlarne con l'agenzia Contrasto, quindi c'è stato... Vi mettiamo in contatto, senz'altro, vi mettiamo in contatto, oppure su Facebook. Noi su Facebook abbiamo una pagina in cui la gente dopo il programma continua a parlare, perché il tempo è quello che è ed è tiranno, per cui io devo salutare Alessandro Chiappini e ringraziarlo perché si è occupato della parte tecnica, mi hai fatto una serie di cenni oggi che non vi dico. Noi torniamo domani dopo le 16. Grazie a tutti da Achille Corea e buon giro di vita. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.